In collegamento con il collettivo Olé per parlare della terza edizione del festival Olé, oltre l'editoria, allo spazio sociale autogestito XM24 a Bologna dal 24 al 26 maggio 2019. Ben trovata. Buongiorno, salve a tutti, ciao. Ci racconti di questo festival? Allora sì, il Festival Olé nasce 3 anni fa, siamo arrivati alla terza edizione. Già nel nome chiude quello che è, cioè Olé è una dicitura per dire oltre l'editoria. È una festival di editoria, grafica, disegno, immagine, scrittura, parola indipendente, quindi è un festival di autoproduzioni. Raccoglie durante questi 3 giorni negli spazi XM24, che è uno spazio pubblico gestito in Bolognina, quindi in un quartiere non popolare nord di Bologna, appunto 3 giorni di esposizione, c'è cioè una mostra mercato, ma anche performance, tantissime presentazioni, mostre, laboratori e tantissimi altri eventi, musica in serata, DJ set, live, quindi insomma 3 giorni ricchissima di cose. Nasce dalla necessità appunto di creare uno spazio a Bologna, un momento di condivisione appunto per le autoproduzioni, per tutto ciò che è autoproduzione e produzione dal basso, che era un po' un elemento che mancava a Bologna e di cui si sentiva la necessità. E quindi giunti alla terza edizione possiamo dire che è un bel successo, insomma. Come saranno articolate queste 3 giornate? Allora, nel venerdì 24 apre la mostra mercato, quindi dal pomeriggio sarà possibile visitare tutti l'allestimento dei vari espositori che verranno, sono più di 140 quest'anno che hanno risposto a una call che è stata lanciata ad aprile e che appunto verranno a portare le proprie opere, le proprie autoproduzioni e potranno liberamente esporre nello spazio di XM. Durante il pomeriggio ci saranno diverse presentazioni di libri e di differenti progetti su 2 palchi diversi quest'anno perché è veramente un festival in grande, sempre appunto nell'ambito di una cultura resistente, se vogliamo metterla così, quindi tutto ciò che in qualche modo produce qualcosa dal basso, quindi anche nelle presentazioni. Quest'anno, per esempio, apriamo con la presentazione di Wolf Bukowski, di La buona educazione degli oppressi, che è il nuovo libro che edito per Alegre. Nel frattempo ci saranno anche diversi laboratori. In serata invece ci sarà una serata realizzata in collaborazione con Bologna Elettrica. Si riparte di sabato 25 con di nuovo mostra mercato aperta tutto il pomeriggio, laboratori. Dopo altre presentazioni, in serata invece avremo una programmazione sul punk con diversi gruppi sia locali sia internazionali molto belli. In più ci saranno alcune performance. Domenica invece la giornata finirà un po' presto, un po' prima. Di nuovo mostra mercato, di nuovo presentazioni, DJ set durante tutta la giornata. E in tutte e 3 le giornate saranno aperte 4 differenti mostre, allestite appunto per l'occasione. Sabato sera ci sarà invece una tavola rotonda fra tutti i festival comunque che ci sono affini, diciamo, e che ci assomigliano in qualche modo, come ad esempio il CRAC, l'AFA di Milano, tutti i differenti festival dell'autoproduzione, l'UE di Napoli, insomma, cercare di fare un punto sulla situazione in Italia sui festival di autoproduzione indipendente. Com'è lo stato dell'autoproduzione, appunto, oggi? Per quel che possiamo vedere noi, è un mondo estremamente vivo e che sta proprio conoscendo la fioritura in questi anni, perché c'è proprio un bisogno di un'espressione più diretta dal basso e di scambiare, di conoscersi e di condividere idee, immagini, parole, senza appunto la mediazione della grande editoria e quindi proprio partendo da ciò che si fa con le proprie mani e col proprio pensiero direttamente. Appunto, come dicevo prima, in Italia si è creata una vera e propria rete di festival indipendenti. Appunto, come dicevamo prima, il CRAC a Roma, il Forte Prenestino, che è praticamente un'istituzione, ma anche festival più giovani, come appunto può essere l'AFA di Milano, il UE di Napoli. Sono appunto tutte realtà estremamente vive, il Borda di Lucca che viene fatto durante il Lucca Comics, il Ratata di Macerata, anche se quest'anno purtroppo non si è riuscito a fare, ma appunto è una realtà vivissima, in pieno fermento. Noi quest'anno la quantità anche di espositori è enorme, per cui la risposta alla call è stata partecipatissima. E l'attività del collettivo Olé, al di là del festival? per lo più la nostra concentrazione è su rendere il festival appunto il più possibile piacevole e interessante per tutte e tutti i partecipanti. Tra di noi diciamo che ci sono diversi grafici, diversi scrittori, insomma, scrittori e scrittrici, insomma, ce ne sono di persone che appunto si dedicano all'autoproduzione. Siamo parte integrante di XM. Olé non può vivere senza XM e XM è molto felice che ci sia Olé. Sono due cose inscindibili, infatti gran parte della nostra azione anche del nostro cercare di dialogare con chi entra in XM per Olé è proprio per portare l'idea che Olé esiste, grazie, ed è parte integrante di XM. XM è sotto sgombero ormai da 2 anni, facciamo parte di questo gruppo politico, insomma, di questo spazio, vivamente in prima persona. E appunto lei non potrebbe vivere senza XM, questa cosa noi ci teniamo sempre a ribadirla, non è un corpo a parte e appunto fa parte di tutte le attività di XM che vengono fatte durante tutto l'anno. Diciamo che poi a livello proprio pratico organizzativo, prima di Olé spesso organizziamo dei piccoli pre-festival anche di autofinanziamento per poter realizzare il festival al meglio possibile, e per il resto ci vogliamo tanto bene e cerchiamo di elaborare appunto contenuti in vista del festival. C'è anche la partecipazione viva agli altri festival in giro per l'Italia, quindi si fa banchetto proprio del gruppo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Sul sito di Olé, xmole.noblogs.org, e poi c'è il sito di XM che invece è ecn.org/XM24. E sì, vi invitiamo a passare, a intervenire, e ricordando che il tema di quest'anno che abbiamo scelto è Rebus, quindi una parola in immagine che vuol dire e può dire tutt'altro rispetto a quello che sembra, e quindi su questo tipo di ragionamento mi piace chiudere l'intervista. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie.